Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, secondo appuntamento per questa nuova stagione di Globetrotter. Anche quest'anno Annarita e io stiamo cercando di raccontarvi qualcosa in più delle nostre spiagge, delle città di mare, dei luoghi d'arte. Non tralasceremo le montagne, i borghi e avremo una particolare attenzione per i più piccoli. Oggi vi portiamo in Sicilia e vi portiamo nelle isole dell'isola, le Eolie. Annarita ne ha parlato con Francesca Colosi, una eoliana trapiantata a Milano, insegnante, scrittrice, autrice di romanzi che spesso hanno il viaggio come filo conduttore. Il viaggio è sempre una costante nella mia vita e sicuramente questo deriva anche dalla mia origine eoliana, che è uno dei luoghi che hanno messo assieme un po' i viaggiatori del passato con quelli del famoso Grand Tour. Infatti un viaggio nelle Eolie è un viaggio nel tempo, inteso sia come tempo storico che come tempo geologico. Francesca, ti interrompo perché tu sei autrice di una guida dedicata proprio alle Eolie, edita da UTET De Agostini. Sì. Quindi sei in grado anche di dirci un po' le differenze tra un'isola e l'altra? Sì, assolutamente. Allora, vabbè, la differenza più lampante è quella legata agli spazi, ovviamente. Però c'è anche una differenza di ordine naturalistico e storico. Sicuramente tutte le isole sono collegate da una storia che le vede protagoniste sin dal Neolitico per via della presenza dell'ossidiana, che rende queste isole particolarmente belli, affascinanti anche dal punto di vista naturalistico, oltre che appunto storico. Tutte rappresentano una grande passeggiata nel tempo, inteso in senso storico e geologico. A Lipari abbiamo, ecco, quello lo consiglio sempre per chi vuole fare un salto alle Eolie, una lunga vacanza alle Eolie, un museo archeologico sensazionale che ha una grandissima peculiarità, quello di curare tantissimo l'archeologia marina. Sono pochi i musei archeologici che si occupano di archeologia marina, dunque non soltanto il reperto archeologico trovato in superficie, ma anche quello che è trovato in fondo al mare. Questa è la più grande peculiarità di questo museo. Ma poi anche dal punto di vista estetico ci sono dei pezzi legati alla storia del pittore di Lipari, dunque un pittore antico ma proprio liparoto, o liparese che dir si voglia, che dipingeva donne sui suoi vasi. Questi non sono presenti soltanto nel museo di Lipari, ma anche in musei di altri luoghi. Altre differenze sono legate a... Francesca, Lipari è l'isola più abitata, ma anche quella forse meglio collegata, no? Se qualcuno deve raggiungere le Eolie dalla terraferma. È l'isola meglio collegata perché è un'isola che intanto è abbastanza vicina alla costa, perché per esempio Filicudi, Alicudi, Stromboli e Panarea, che sono altrettanto belle, hanno meno collegamenti proprio per il fatto di essere meno vicine alla costa siciliana e anche per avere dei porti meno sicuri. Non parlo di sicurezza in termini di possibilità di annegamento, ovviamente, però gli ormeggi diventano più difficoltosi in caso di vento oppure di mare forza 7 o forza 8. L'approdo, l'ormeggio, dunque per le piccole e grosse imbarcazioni al porto di Lipari è molto molto più facilitato. E poi da Lipari si possono raggiungere tutte le altre? Da Lipari si possono raggiungere tutte le altre. Un'altra cosa che volevo aggiungere, dato che abbiamo parlato solo di natura e di storia, è anche l'aspetto culinario di queste isole, perché queste isole, pur essendo isole, non nascono solo con la cultura del pesce e della pesca, ma anche con la cultura dell'agricoltura, per cui la cucina è ottima ed è anche diversa da quella del resto della Sicilia e delle altre isole. C'è per esempio un giovane chef, Sasha del Bono, che nel suo ristorante Casba, sempre di Lipari, mette assieme verdure, pesce e carne del luogo, dunque con una scelta che è assolutamente tipica del posto, rivisitando la cucina mediterranea. Dunque c'è una peculiarità forte anche rispetto proprio alla cultura culinaria, che appunto tipicamente euliana, e questo secondo me è anche un aspetto molto interessante che molti viaggiatori cercano ora, al di là della Oggi cultura in queste solita. isole che tipo di turismo c'è? C'è un turismo di famiglie o un turismo di single? C'è un turismo vario e anche qui le varie isole si differenziano perché Lipari e Vulcano sono due isole con spiagge lunghe e o poco ciottolose o anche sabbiose, dunque con un approccio più semplice proprio dal punto di vista della gestibilità della spiaggia. Invece le altre isole praticamente non hanno spiagge, hanno una costa frastagliata, meravigliosa, delle baie incantevoli, ma quelle sono isole amate più da velisti o da giovanissimi. Panarea, per esempio, è anche l'isola delle notti brave, per dire. Dunque, pur non avendo spiagge, è un'isola molto molto amata dai giovanissimi che vivono 24 ore su 24. Stromboli è un'isola che è amata in ugual modo dai single, ma anche dagli amanti della natura, perché Stromboli ha anche delle spiagge, sì, Stromboli ha anche un facile accesso alle spiagge, ma a Stromboli, dicevo, meravigliosa escursione è quella sul cratere, che si può fare sia in notturna che in diurna. Certamente non è consigliata a famiglie con bambini, ma a chi è abituato a delle grosse scarpinate, sì, perché è un'emozione unica. Francesca, veniamo un attimo ai costi. Fare una vacanza alle Eolie è sempre costoso oppure, insomma, c'è la possibilità anche di fare una vacanza abbastanza low cost? C'è anche la possibilità di fare una vacanza molto low cost. Ovviamente, come in tutte le parti del mondo, dipende moltissimo dalla stagione. L'alta stagione, ovvero agosto, è la più cara. Però, se si ha la possibilità di andarci in primavera, addirittura in inverno, premetto che il clima è sempre molto bello e che le giornate di pioggia normalmente lì sono poche, per cui sì. Può capitare che piova un giorno o 2 giorni di seguito, ma sono sempre delle piogge abbastanza gestibili. A stessa stagione ovviamente i prezzi cambiano del tutto perché gli alberghi sono semivuoti, ci sono molti appartamenti che vengono affittati a prezzi, in alcuni casi anche regalati. Le trattorie abbassano i prezzi. Senti, posso farti un'ultima domanda? Vabbè, tu sei di Lipari, quindi tra virgolette sei di parte, ma qual è il luogo delle Eolie che tu ti senti di consigliare di più ai nostri ascoltatori? Sì, è vero, sono di parte, però sono anche obiettiva. Secondo me un luogo dove questo mix di storia, geologia, natura e facilità di accesso alle spiagge è più ottenibile è proprio Lipari. Devo dire che anche Salina, che è un'isola bellissima, è già di grande moda, mette assieme anche tutte queste caratteristiche, cioè quello di essere bella da un punto di vista naturalistico e di avere anche una grande storia. E dopo le Eolie, adatte ai più piccoli con qualche accortezza perché le spiagge spesso sono di scogli e perché l'acqua è subito profonda, vi consigliamo una meta proprio dedicata ai bambini, anche solo per un weekend. La Foresta dei Draghi in Val di Fiemme, in Trentino. Nella Foresta dei Draghi, le potenti creature alate che popolano il Latemar, la montagna, hanno lasciato indizi che rivelano il loro desiderio di mostrarsi. I bambini possono andare alla ricerca dei segni del loro passaggio lungo un percorso realizzato in collaborazione con l'Istituto d'Arte Sora Perra di Pozza di Fassa. Qui studenti e professori hanno esposto le prove che testimoniano la presenza dei draghi. Il sito dove trovare tutte le informazioni è visitfiemme.it. E anche per questa settimana è tutto. Alla prossima!